Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Manuale di omosessualità di Progetto Gay, capitolo decimo. Ansia e sessualità gay. Questo capitolo è dedicato all'influenza dell'ansia sulla sessualità gay, limitando il campo alla dimensione sessuale in senso stretto. Mi capita parecchie volte in chat di parlare con ragazzi ansiosi per questioni connesse con la sessualità gay. Le cause di questi stati d'ansia possono essere varie. In via puramente semplificativa, cito le più ricorrenti. Ansia derivante da momenti di incertezza circa l'orientamento sessuale, ansia da presunta inadeguatezza, ansia da problematizzazione della sessualità. Si tratta di tre realtà concettualmente diverse che possono tuttavia presentarsi variamente mescolate. Prima di procedere nel dettaglio, va ricordato che l'ansia si identifica con un'avvertita situazione di pericolo, di incertezza o di incapacità di gestire una situazione. L'ansia presenta manifestazioni psicosomatiche talora imponenti, come tachicardia, tremore, pressione alta, talora meno evidenti, come insonnia, disturbi del sonno, incubi. L'ansia può avere anche manifestazioni tipicamente sessuali, come l'impotenza, l'eiaculazione precoce e vari disturbi anche nella masturbazione. Tuttavia, più che occuparci delle manifestazioni sessuali dell'ansia, parleremo delle situazioni ansiogene connesse alla sessualità attraverso l'esame di alcune situazioni tipiche. Partiamo dall'ansia derivante da momenti di incertezza circa l'orientamento sessuale. Ho parlato più volte della scoperta della propria omosessualità da parte di un ragazzo che si era ritenuto in precedenza etero e di quanto questa scoperta generi ansia derivante soprattutto da un'errata rappresentazione dell'essere gay. Qui intendo prendere in considerazione la situazione diversa. Un ragazzo che si ritiene gay, che ha fantasie erotiche esclusivamente gay, che si masturba esclusivamente pensando ai ragazzi, si trova a sperimentare un contatto sessuale con una ragazza. Contro la sua ipotesi, secondo la quale per un gay in situazioni simili qualsiasi forma di coinvolgimento dovrebbe essere impossibile, quel ragazzo sperimenta invece una evidenza di carattere fisiologico che non sa come interpretare. Quando si è trovato con la ragazza, non solo non è stato a disagio, ma ha avuto l'erezione ed ha considerato la cosa realmente eccitante. Quel ragazzo, pur continuando nella quasi totalità dei casi a masturbarsi pensando ai ragazzi, si è masturbato qualche volta anche richiamando alla mente il contatto sessuale con la ragazza. Finché questi comportamenti non sono stati oggetto di riflessione, essi sono risultati entrambi gratificanti. Quando però il ragazzo ne ha preso conoscenza, è sopravvenuto uno stato d'ansia che ha turbato il precedente assetto e ha creato incertezza e insicurezza. In genere, quando il contatto eterosessuale è il primo contatto sessuale di un ragazzo gay, esso incide in modo significativo, portando un turbamento degli equilibri della sessualità masturbatoria raggiunti in precedenza. Ma nel caso in esame, la nuova esperienza etero di fatto non ha soppiantato la sessualità gay del ragazzo. Quel ragazzo continua a masturbarsi pensando ai ragazzi nella quasi totalità dei casi e finirà quasi certamente per tornare a fantasie sessuali esclusivamente gay in tempi più o meno lunghi. L'ansia deriva da un'errata percezione di tutta la vicenda come un cambiamento del proprio orientamento sessuale. Questa errata percezione viene drammatizzata e produce senso di insicurezza. Bisogna prendere coscienza che queste cose accadono e che nella stragrande maggioranza dei casi hanno influssi temporalmente circoscritti. E se così non fosse, e se per un caso assai improbabile la vicenda fosse spia dell'affiorare di un'identità eterosessuale o di una forma di bisessualità, la cosa non costituirebbe comunque un problema. Perché non si deve essere gay per forza, ma lo si deve essere in modo libero se e solo se lo si è realmente. Come merita il massimo rispetto un ragazzo che dopo essersi creduto etero per anni si riconosce gay, Così merita il massimo rispetto un ragazzo che, dopo essersi creduto gay per anni, scopre la propria eterosessualità. Si tratta di un evento comunque molto raro perché la pressione sociale spinge in modo molto significativo i ragazzi gay a credersi etero, ma non spinge certo i ragazzi etero a credersi gay. Solo in un paio di casi, eventi, lo ripeto, molto rari, mi è capitato di parlare con ragazzi che credevano di essere gay perché facevano sesso con i ragazzi, ma avevano relazioni affettive profondissime con una ragazza. Ho notato come per questi ragazzi l'accettazione della loro eterosessualità, dopo essersi considerati gay per anni, fosse ben più difficoltosa dell'accettazione della omosessualità da parte di un ragazzo che si è creduto etero per anni. In sostanza, per questi ragazzi, che avevano fatto una notevole fatica ad accettarsi come gay, le prospettive gay crollano e si tratta di ricostruire tutto da capo in chiave etero. Il fenomeno è analogo a quello traumatico che si presenta per i bisessuali a periodi all'atto del cambiamento del loro orientamento sessuale. Veniamo all'ansia da presunta inadeguatezza. L'ansia da presunta inadeguatezza può presentarsi sia in riferimento a situazioni concrete, soprattutto nell'immediatezza di esse, sia a livello generale preventivo. Si tratta di situazioni piuttosto diverse. L'ansia che si manifesta nell'immediatezza di incontri che possono comportare anche un contatto sessuale interviene nel momento in cui una relazione affettiva seria, già strutturata, può arrivare a comportare anche un coinvolgimento sessuale. Spesso questo tipo di ansia è legato al fatto che la sessualità è vista come qualcosa di ulteriore e di diverso rispetto al contatto affettivo al quale si è abituati. Una specie di secondo stadio che può compromettere il primo. L'ansia si manifesta in modo molto significativo in occasione del primo contatto sessuale gay e consiste nel timore connesso alla inesperienza, al non so come comportarmi, all'avere paura di sbagliare qualcosa e di indisporre il proprio partner al punto di perderne l'affetto per imperizia nel gestire il rapporto sessuale. Classiche sono le espressioni "non so come reagirò, ma non vorrei deluderlo, lui è così dolce, ma io mi sento così imbranato". In realtà l'ansia da presunta inadeguatezza è una componente costantemente presente nei primi rapporti sessuali, specialmente nel primo. Più che di vera ansia, si tratta di incapacità di prevedere le reazioni del proprio compagno in una situazione sessualmente coinvolgente quando mancano del tutto esperienze precedenti. In genere l'ansia del primo contatto sessuale è praticamente inesistente quando il contatto sessuale arriva in modo imprevisto, mentre tende ad essere tanto più consistente quanto maggiore è l'aspettativa connessa a quel contatto e quanto più lunga è l'attesa prima che si concretizzi. Il modo peggiore per affrontare l'ansia da inadeguatezza in una situazione concreta è ricorrere a modelli comportamentali esterni. Una coppia deve poter trovare la propria armonia nella sua autonomia. L'ansia da presunta inadeguatezza, che si manifesta a livello generale senza riferimento a situazioni attuali e concrete, è in genere il portato di una debole autostima e talvolta la manifestazione di momenti di depressione. Molto spesso non originati da questioni attinenti il sesso, come il vedersi brutti o l'avere in precedenza trovato come risposte affettive soltanto rifiuti. Su questo sostrato di debole autostima si possono inserire timori specifici, spesso infondati o ampliati proprio dalla componente ansiosa, come la debolezza erettiva, la percezione del pene piccolo e l'eiaculazione precoce. In situazioni del genere un ragazzo gay tende a evitare ogni forma di dialogo con altri ragazzi, si trova a disagio quando sente che gli altri parlano di sesso e tende a socializzare poco. Vorrei sottolineare che la parola amicizia, specie tra ragazzi etero, oltre ai contenuti generici di gradevolezza, di rispetto e di attenzione reciproca, ha un'altra componente importantissima che è la confidenza sessuale. Quando due ragazzi etero diventano amici nel senso serio del termine, non solo non è strano, ma è assolutamente ovvio che confrontino le loro esperienze sessuali. Questo fatto diminuisce di molto la tensione ansiosa concentrata sui contenuti specificamente sessuali e contribuisce a dare alla sessualità una dimensione meno mitica. In altri termini, della propria sessualità si può parlare tra pari senza timore di censure, in un clima libero in cui l'attenzione reciproca è la regola. Un ragazzo etero che racconta ad un altro ragazzo etero di essersi masturbato pensando alla sua ragazza non lo fa per uno stupido esibizionismo, ma perché parlare con un altro ragazzo etero di queste cose scioglie l'ansia e aiuta a trovare un confronto su questioni nelle quali il confronto diretto è raramente realizzabile. Tra ragazzi gay, anche se c'è sempre di sottofondo l'idea che ogni amicizia tra due ragazzi gay possa trasformarsi in un'amicizia amorosa, il meccanismo è esattamente lo stesso. E proprio per questo il non avere amici gay con i quali confrontarsi e la limitazione del dialogo con altri ragazzi gay ai soli contenuti non specificamente sessuali priva di fatto un ragazzo gay di un meccanismo fondamentale per la riduzione dell'ansia connessa alla sessualità. Faccio solo un esempio. Un ragazzo etero, educato un secolo fa con un'educazione fortemente repressiva, provava in genere forti ansie e forti sensi di colpa anche riguardo alla masturbazione. Oggi, in un ambiente libero in cui un ragazzo può parlare tranquillamente di queste cose con gli amici e può capire come le vivono i suoi amici, la carica ansiogena connessa alla masturbazione è nettamente diminuita. Certo, per un ragazzo gay la cosa è più complicata, ma il meccanismo di riduzione dell'ansia è sostanzialmente lo stesso. Veniamo ora all'ansia da problematizzazione della sessualità. Per certi ragazzi la sessualità non è un'attività spontanea. La dimensione razionale, particolarmente forte, spesso comprime o reprime la sessualità. È il caso tipico dei ragazzi che vogliono arrivare a capire tutto della sessualità, che, piuttosto che viverla in modo immediato, cercano di analizzarla, di vivisezionarla, di comprenderla razionalmente attraverso una spiegazione strettamente concatenata e logica di cause e di effetti. Mi accade spesso che alcuni ragazzi mi chiedano, in relazione ad un fatto specifico che hanno osservato nella loro sessualità, ma che cosa significa? Come se fosse possibile dare una risposta seria a tutte le domande di questo tipo. Questi ragazzi in genere rifuggono dalla sessualità, che non è razionalmente dominabile, e vogliono programmare la vita affettiva. Sono estremamente selettivi nella ricerca del partner, ma in base a categorie astratte. Per loro è difficile capire che la sessualità è abbandono ad un livello di vita affettiva profonda che risponde ad esigenze fisiologiche fondamentali e che ragionare troppo sulla sessualità significa perderne l'essenziale. Come superare le ansie connesse alla sessualità? Un'osservazione preliminare. Tutti, chi più chi meno, vivono o hanno vissuto ansie connesse alla sessualità. Se un ragazzo non provasse ansie connesse alla sessualità, ci sarebbe seriamente da preoccuparsi. L'ansia, entro una certa misura molto variabile, accompagna in via ordinaria la vita sessuale. I problemi si creano quando questa ansia è paralizzante, quando porta all'isolamento e alla sessuofobia. Per superare l'ansia bisogna rendersi conto di vivere una situazione ansiogena, cercare di vedere le cose in una prospettiva più serena e valutando i cosiddetti problemi per quello che sono in realtà e quindi ridimensionandoli. Mantenere sempre aperto il dialogo e il confronto con persone che vivono situazioni analoghe. Abituarsi a considerare la sessualità come un tema ordinario di conversazione seria e a parlarne effettivamente in modo libero con persone che hanno esperienze analoghe. Se dovessi riassumere in una sola parola gli elementi fondamentali per superare le ansie connesse alla sessualità, userei la parola socializzazione. Avere amici, parlare e confrontarsi è la base per poter ridimensionare i problemi e per restituire alla sessualità la qualità che le conviene di componente ordinaria della vita di tutti. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.